La ilaha illallahu, sahibul wahdaniyya, non c'è divinità tranne Allah, unico titolare dell'unicità. Al-fardaniyyatu al-qadimiyyatu al-azaliyyatu al-abadiyya, della singolarità, dell'eternità, della continuità, della perennità. Laisa lahu diddun wa la niddun wa la shibahum wa la sharik. Egli non ha rivale, non ha competitore, non ha compartecipe nella divinità.